Benvenuti, benvenuti a questo 13° episodio, se non sbaglio, del nostro Focolare Elettrico, il nostro podcast su videogiochi e game design. Io sono Marco. Io sono Jacopo. E quest'oggi la puntata si intitola I'm Back, Baby. E ci abbiamo messo circa un'ora a trovare il titolo, quindi l'episodio durerà un po' di meno. Forse. Vedremo. Perché ci abbiamo messo così tanto a trovare questo titolo? E un titolo che poi non sembrerebbe nemmeno così originale. Ma infatti, no, ma è come quando fai il personaggio, no? Che ci metti 2-3 ore a trovare il nome. Assolutamente, bisogna trovare la frase giusta, no? Quella con più effetto. E I'm back, baby, sono proprio le prime parole che Duke Nukem parla nel suo famoso ritorno, Duke Nukem Forever, videogioco che tutti hanno giocato, no? Assolutamente, videogioco del, credo, 2000, intorno al 2010, mi sembra, ma controlliamo subito. Sì, perché è uno di quei giochi... 2011, il videogioco. È uno di quei giochi famosi per essere vaporware, no? Cioè, per essere qualcosa che è stato... Nei lavori è stato, diciamo, nell'aria da migliaia e migliaia di anni, poi alla fine è uscito e... Esatto. Il videogioco seguito del gioco Duke Nukem del 1996, che ha avuto un successo strepitoso e che per cercare di riportare in auge la saga, pensando di avere ancora abbastanza fan da poterlo fare, ha lanciato questo sequel nel 2011, che ha floppato brutalmente. Ma non è proprio di Duke Nukem che parliamo stasera, questo pomeriggio, ma... Però si potrebbe, assolutamente. Perché Duke Nukem ha ispirato tante cose che sono anche in Half-Life Alyx, tipo disegnare col pennarello su una lavagnetta... Oh, vabbè, lasciamo perdere. Non entriamo troppo nella tana del bianconiglio, perché stasera, questo pomeriggio parleremo di nostalgia, ovvero di come anche l'industria del videogioco negli ultimi tempi non si sia salvata da questa abitudine di riesumare vecchi IP, vecchi giochi e riproporli in maniera a volte buona, a volte come è stato per Duke Nukem. E quindi cosa intendiamo noi con il concetto di nostalgia? Mi sembra di aver guardato la volta scorsa, l'avevo appunto segnato qui, il dizionario definisce la nostalgia, il Treccani definisce la nostalgia come uno stato d'animo melanconico, causato dal desiderio di una persona lontana o di una cosa non più posseduta, dal rimpianto di condizioni ormai passate, dall'aspirazione a uno stato diverso dall'attuale che si configura comunque lontano. Però vabbè, diciamo più la prima parte che l'ultima, cioè esatto. Più la parte di qualcosa che nel passato, qualcosa che non è più posseduta o una persona che non puoi più... Secondo me in questo caso particolare dobbiamo vederlo come la definizione da rimpianto di condizioni ormai passate, ovvero nel nostro ambito di videogiochi in particolare è quella tattica che molte delle grandi imprese hanno iniziato a usare ultimamente, ovvero di rievocare vecchie emozioni, vecchi amori da parte dei giocatori, riproponendo titoli della nostra infanzia, di quando ancora che abbiamo giocato quando eravamo bambine, che ci provocano ancora quelle stesse sensazioni e meraviglia una volta riproposti in una nuova versione. Perché l'amore per le vecchie IP è difficile da uccidere, ma non impossibile, come vedremo in questo episodio. Perché alcune si sono impegnati per, come dire, riproporre cose buone in maniera pessima. Quindi, volevi aggiungere qualcos'altro, Jacopo, a questa prima introduzione? No, vabbè, cioè, parlando un po' in generale... La nostalgia è qualcosa che vende in ogni industria, in ogni ambito. Giustamente. le case produttrici di videogiochi non sono di certo le prime ad avere avuto questa idea, come probabilmente potrete, forse ne parleranno anche sul nostro podcast. In realtà l'abbiamo già parlato, se andate a recuperare l'episodio tipo 20, non mi ricordo, 26, 28, un episodio dove parliamo dei remake Disney, un pochino ne abbiamo parlato, però questo episodio pure è venuto fuori da una domanda che ci ha fatto Salla, cioè fate questo episodio, quindi non era una domanda, beh, era una domanda molto affermativa. In esatto, no? Beh, era la domanda che ci ha fatto è stata molto, come dire, non voglio, come... cioè è una domanda fatta per generare polemiche, cioè una domanda capito molto provocatoria che però nasconde secondo me una verità, cioè la creatività è morta. E la domanda viene fuori secondo me da alcune cose diciamo recenti, ma anche dei trend diciamo meno recenti, quindi che ne so, il fatto che siano tornati molto in auge gli emulatori venduti come console a parte, quindi tutti i vari Nintendo Classic Mini, Nintendo, Super Nintendo Mini, adesso c'è anche Sega Mini, la PlayStation 1 Mini, che fa pure pietà, fa veramente schifo, non compratela. Infatti, vabbè, anche un Super Nintendo Mini dice fatto bene, però in sostanza è un reimpacchettare qualcosa che dovrebbe essere gratuito ormai. Vuoi per i diritti d'autore, vuoi perché per motivi di archiviazione e così, però fa figo, è una cosa che fa figo, è retro, è vintage, e ci sta gente che la compra proprio per, non solo per collezionismo, ma perché ci vuole rigiocare, perché la nostalgia, perché così. Mm-hmm. Ma non è solo questo che Salla si riferiva, secondo me, era anche proprio alcune serie, alcune uscite nuove, o comunque che vengono chiamate nuove, tipo Pokémon, tipo il DLC dei Pokémon, che lo hanno un attimo infoiato. Quindi tutte queste cose insieme, quindi vari emulatori che vengono rilasciati, sequel e remake remastered di giochi vecchi che vengono fuori comunque senza infamia, senza lode o con infamia, tutte queste cose insieme secondo me hanno fatto un po' sorgere la domanda, ma che stiamo a fare? Non ci sono più idee nuove? È una domanda, penso, complicata, che secondo me in questo caso Salla l'ha posta di nuovo in questo ambito, perché è stato soprattutto nell'ultimo periodo in cui si sono viste parecchie idee riciclate o remake, remastered, reboot. Giusto nell'ultimo periodo abbiamo avuto cose come Final Fantasy VII, i Resident Evil, la serie di Dark Souls, che non è nemmeno tutta troppo vecchia, tutti gli emulatori riproposti come console stand-alone, eccetera, eccetera. E tutto questo, se ci pensiamo, negli ultimi 3-4 anni, giù di lì, una cosa... Facciamo 7, facciamo una cosa più comprensiva. Okay. Tutta la generazione un po' è stata così. E a volte... effettivamente ci si può chiedere come mai si torna a sfruttare tutte queste idee, tutte queste vecchie IP, riproporle un po' nella stessa salsa. IP è proprietà intellettuale, non so se l'abbiamo detto. Giustamente, intellectual property. Quindi che ne so, tipo i Power Rangers sono un IP, i Transformers sono un'altra IP, Halo è un IP, cioè tutte queste cose sono IP, sono proprietà intellettuali di vari studi e... Scusa. No, figurati, hai fatto benissimo a definirlo, perché effettivamente, come dicevo, le aziende hanno un motivo per fare questa cosa. Una volta che ti sei creato un IP che ha attirato abbastanza attenzione dal pubblico, ti viene voglia, tu, azienda, di sfruttarla al massimo. Dopo che hai speso vari soldi a creare i Pokémon, Halo, a creare Minecraft e tutte queste cose qui, ti viene voglia di, come dire, mungere la mucca che sei riuscito a stavo a dire partorire, ma è un'immagine molto brutta. No, per favore. Quindi sì, è la prima spiegazione, quella molto più facile, molto semplice, che tutte queste riproposte, questi nuovi titoli, tra virgolette, che sono in realtà vecchi titoli ricreati per le nuove console, è che sono soldi facili, nel senso sai già di avere una buona fanbase, sai già che la gente impazzisce per un particolare gioco, si sente anche dire, ho sentito anche di gente che ha ripreso, ricomprato lo stesso identico gioco, non una, non due, neanche tre volte, ma ben di più per varie console, varie, sì, vari PC, vari store anche. Quindi sì, è molto semplice cadere in questa abitudine di voler avere questo titolo che si ama particolarmente a disposizione su vari dispositivi, e le aziende lo sanno, perché di sicuro non sono scemi in questo caso. E niente, questo era giusto per dire, primo motivo, soldi facili, e fin qui tutto chiaro. Esatto. Ma ci può essere anche qualcos'altro dietro, no? A volte... Sì, cioè, allora, diciamo, sulla superficie potresti dire, ok, sono soldi facili, comunque non è un investimento rischioso, perché l'investimento che devi fare per questo tipo di operazioni lo vedi più come nell'ambito, ok, siccome abbiamo una specie di riferimento, perché comunque non è una cosa nuova, sappiamo dal punto di vista economico dove infilarla come budget, come aspettative, come target d'utenza, anche solamente il fatto di dover scegliere a chi mandare la copia per recensirlo, che sembra una cazzata, no? Invece in realtà influenza molto come viene percepito perché se mandi la copia, se mandi una copia di Dark Souls a un recensore che magari ti fa solamente giochi di guida, sì, uno speedrunner di Super Mario 64 cioè tutte queste cose dicono ok, c'è un motivo economico dietro, nostalgia vende, quindi facciamo soldi. Però secondo me sì, cioè esistono alcuni casi, è innegabile, esistono alcuni casi dove la casa di sviluppo ha, diciamo, un buco, cioè ha una mancanza di ispirazione, nel senso proprio non sa più dove portare questa IP, e quindi per non farla morire magari dicono ok, preferiamo riportarla in auge in quest'altro modo. Magari c'è un buco nel mercato, quindi non ci sono tanti titoli di quel genere fatti in quel modo, quindi rimettere sul mercato un titolo del genere non è solamente facciamo soldi facili, anche ok, cioè manca qualcosa e questo qualcosa lo riempie, c'è un buco che ha la forma di questo gioco. E poi l'ultimo motivo del perché si fanno queste operazioni è per a volte conservare dei giochi che altrimenti andrebbero persi, tipo c'è una ludoteca a Bologna dove moltissimi giochi vengono donati e vengono mantenuti. Ed è, secondo me, un'operazione importantissima, perché molti giochi vengono persi, più di quanto si pensi, che dice, cavolo, ma un gioco è una cosa digitale, come fai a perderla? In realtà, morendo la piattaforma dove gira un gioco, se è un gioco per console, di solito muoiono anche molti di quei giochi, vengono proprio persi, letteralmente, come succedeva una volta per le registrazioni degli episodi di Doctor Who. Cioè, è proprio... È importantissimo conservarli, perché se anche muore la piattaforma su cui girano, si possono sempre emulare in qualche modo. E qui io parlerei un po' di cosa vuol dire remake, cosa vuol dire remastered, cosa vuol dire un reboot, cosa vuol dire un full sequel anni dopo, e anche un po' parliamo di emulazione prima, spieghiamo cosa vuol dire emulare. Esatto. Spiegherei un po' tutte queste categorie e poi andrei avanti su ognuna di queste categorie, quando va bene, quando va male, ci eccetera. Sta. Che dici? Le varie categorie del ritorno, no? Del comeback. Quindi mettiamo addosso un po' i panni di Sabaku. Sabaku. Ci citiamo sempre Sabaku, un grande recensore e anche produttore di video sui videogiochi, di origine italiana, tra l'altro, che ha affrontato questo tema neanche troppo tempo fa, penso un anno, forse due anni fa. E lo riprendiamo un attimo qui. Quindi, partiamo. Direi che quella più di base, secondo me, è l'emulazione, perché e ancor meno il riportare un videogioco, quanto più il voler fare in modo che, come l'ultimo punto che dicevi, non venga perduto. L'emulazione consiste appunto nel creare un software, un programma che può, tipicamente un programma che può girare su un normale PC, che emula appunto il sistema operativo di una vecchia console un vecchio sistema operativo di un computer, per esempio, in una macchina più moderna. Cosa che sì, perché... con un... Scusa, prego. No, di pure, prego. Diciamo che se tu pensi, che ne so, a un gioco per PC, se era fatto per un PC più vecchio, magari ci sono abbastanza cose in comune, per cui dici, ok, possiamo un po' rimaneggiarlo e farlo funzionare, ma se il gioco era fatto per un tostapane... il tostapane... Esatto, il tostapane è talmente diverso, è talmente vecchio, è talmente... A volte ha cose talmente ottimizzate per i videogiochi, che sono fatte apposta per quelle cose, che farli girare su un'altra macchina è impossibile, cioè sono fatte apposta per quello e addirittura si basano sulle tempistiche di quella macchina. È come avere una catena di montaggio dove la macchina che viene dopo ha una certa macchina, tipo, che ne so, la macchina che abita i tappi dipende dalla macchina prima che ha fatto la, che ha scavato la, come posso dire, la forma del tappo sulla bottiglia. La scanalatura, tu dici. La scanalatura del tappo sulla bottiglia. Quindi tutte queste cose messe insieme devi un po' appunto fingerle, devi un po' far finta di farle, diciamo, su PC. Così il gioco è ignaro di tutto, pensa che stia girando sulla macchina vecchia, insomma. Non vogliamo entrare troppo nello specifico, visto... No, però per dire, emulatore, dal nome, diciamo, viene in mente questo. Cioè, stai un po' emulando, stai un po' facendo finta di essere... Era quello che volevo dire, una macchina moderna che fa finta di essere qualcosa che non è, questo sistema più antiquato per permettere ai videogiochi che erano pensati per girare su questo sistema di poter girare anche su macchine più moderne. Ora, dicevo appunto, non ci mettiamo a entrare in dettagli più tecnici, no, è troppo complicato. Potremmo, visto la nostra laurea comune, però non... già ci ascoltano in pochi, non facciamo scappare quelli che ci ascoltano. quindi sì, l'emulazione è proprio il primo passo, non è nemmeno il ricreare un gioco, il riprogrammarlo, perché non c'è nessuna riprogrammazione del gioco stesso, ma bensì del sistema su cui gira. E il gioco viene letteralmente preso e fatto girare su una macchina che ora può farlo. Da questo poi ci sono i livelli un po' successivi. Sì, perché questa parte, diciamo, richiede lavoro solo sull'emulatore. Esatto. Se hai un gioco tipo Final Fantasy X che sull'emulatore gira male, non è colpa del gioco, non vai a toccare il gioco, vai a toccare l'emulatore. Esattamente. E una volta che hai fatto un emulatore completo, puoi far girare tutti i giochi che giravano su quel tipo di console. Il livello successivo, direi, è la remastered a questo punto, perché la remastered dovrebbe essere quel videogioco che viene riproposto, su cui viene messo mano nel gioco, in questo caso, ma solo per aggiornare alcune sue componenti, e di sicuro non quelle componenti che vanno a influenzare il gameplay o l'esperienza di gioco. Tipicamente sono remastered quelle che lavorano sulla grafica, sulla UI del videogioco, che magari mettono, fanno qualche improvement della quality of life. Per esempio, un esempio che mi viene in questo momento è... Hai detto tre parole inglesi di fila: UI, interfaccia utente, improvement, miglioramento, quality of life. Secondo me va lasciato in inglese, però, perché sì, non so se in italiano, cioè quality of life è tipo, che ne so, non so come fare un esempio. È quello che stavo per fare io giusto adesso Oddio, vai, prego allora. Nella remastered di Dark Souls 1 una quality of life che è stata molto migliorata è il fatto, per esempio, di poter utilizzare più oggetti contemporaneamente, che nella versione originale era impossibile. Oppure oddio, anche, okay. Sì, esatto, era veramente, come dire, difficile da... Una delle parti più difficili del gioco era il premere ripetutamente lo stesso tasto più e più volte per esempio, dare uno alla volta una settantina di oggetti a uno degli NPC per aumentare il tuo livello in uno dei patti, delle varie covenant che c'erano, che ci sono ancora nel gioco. Quindi sì, questi sono gli esempi più classici di migliorie apportate alla grafica, all'interazione con l'utente, ma di per sé il loop di gioco, le meccaniche, la storia, la presentazione, tutta l'esperienza in sé non viene toccata, quella resta invariata anche nella nuova versione. E di solito le migliorie sono minime, sia nella grafica che nel quality of life, cioè potresti, se ci giochi su un tubo catodico, potresti quasi pensare che sia il gioco vecchio. Potresti avere un attimo questo dubbio. Infatti un'altra miglioria che avevo dimenticato è, potrebbe essere proprio il consentire a un gioco di una vecchia console di girare su una console più moderna. Ci sono stati anche, come remastered, in realtà solo adattamenti per togliere diciamo, la parte di emulazione da tutto il processo, cioè il gioco viene riscritta qualche libreria, viene adattato qualche parte del codice per permettergli di poter girare anche su un PC moderno senza aver bisogno di un emulatore. E di solito in quei casi l'unica cosa che cambia la risoluzione e basta, cioè solo quello. Ok. Il passo ancora successivo, direi, è il remake, in cui... Vuoi dire tu, Jacopo, stavolta? Vuoi... No, vai, ci sta, che okay. Mi piace interromperti mentre cerchi... Perfetto, è una delle mie parti preferite. Il remake in questo caso è appunto il prendere un vecchio gioco, ma andare anche a, come dire, rielaborare non solo parti tecniche, ma anche un po' di gameplay. Quello che... Vediamo, adesso ovviamente non mi sfuggono, uno dei remake che ha fatto molto, che forse era stato definito remastered, ma può essere più considerato un remake, se non sbaglio è stato proprio Crash, la collezione Crash Bandicoot, che è uscita anche qua, credo, un paio d'anni fa, nel 2018-19, che l'hanno definita come remastered, ma era più forse da intendere come remake, perché anche parte... Potremmo anche usare la terminologia di Sabaku. Cioè potremmo dire, se il gioco, la base di gameplay rimane molto simile, ma la grafica è totalmente rifatta da capo, allora è una specie di remastered plus, perché, tipo appunto come esempio, c'è la trilogia di Crash Bandicoot, c'è la Halo 1, Halo 2 Anniversary, c'è... lo stesso Shadow of the Colossus, tra l'altro ha avuto anche la remastered base, non solo la remastered base. Comunque sono giochi che magari sì, puoi dire, per me hanno avuto un effetto completamente diverso, cioè per me giocare a Shadow of the Colossus in versione nuova, remastered plus, mi ha proprio, cioè è stato rigiocarlo di nuovo, cioè è stata una cosa nuova e bellissima, però il gioco di base non cambia in realtà, il gameplay è lo stesso. Questo secondo me è Crash, la trilogia. È forse più Crash Team Racing, è stato un remake, Resident Evil 2 e 3. Non cambia il gameplay, ma cambia comunque un po' l'esperienza di gioco, al contrario della remastered, in cui entrambi restano abbastanza invariati. Per cui il gameplay resta un po' lo stesso, ma tutte le migliorie che sono state fatte, con la grafica, asset, magari ricostruiti completamente... C'è proprio un look diverso in quel senso. Proprio lo stile e l'atmosfera del gioco viene talmente modificata che l'esperienza generale del gioco cambia. Esatto, per me questo Remastered Plus sarebbe. Mm-hmm. Quindi... Remake invece è quella dove anche un po' il gameplay viene un po' modificato, era questo che... Questo intendevo io. Cioè, io intendevo più, esatto. Per me remake è più Resident Evil 2 e 3. Esatto, altra citazione che andava assolutamente fatta, quella in cui di base la storia è la stessa, l'ambientazione un po' così, ma il gameplay è stato abbastanza modificato e si sente, cioè il giocare gli giochi originali e questi invece remake sono due esperienze completamente diverse. Al massimo cugini, nonno e nipote. Perfetto. L'ultimo livello di questa scala è il reboot, dove si intende che viene ripresa una vecchia IP, forse anche il nome di un vecchio gioco, ma non è lo stesso gioco. È lo schiaffi una cosa, su una roba nuova. È una roba completamente diversa. Forse uno degli esempi che viene in più in questo momento, poi si può pensare a un po' l'ultimo Doom. Anche Doom, prego di pure se ce n'è uno. Doom Eternal. Doom, assolutamente. Stavo pensando un po' anche all'ultimo Legend of Zelda, che tecnicamente mantiene ancora il nome di The Legend of Zelda, ma se lo mettiamo vicino a uno dei suoi predecessori, sono due cose abbastanza diverse in questo caso. Ma non sono più full sequel quelli? Non lo so, si può definire sequel, c'hanno i sequel tecnicamente. A parte... Non lo so, c'è mai stato un sequel effettivamente? Perché esiste la timeline dei giochi di Zelda, su cui ci sono molte controversie, ma... lì dipende un po' dalla tua... Non lo so, però questo ci porta un po' a full sequel, no? All'ultima spiaggia, quella più lontana dall'idea di questo episodio in realtà. Questa la lascio dire a te, perché mi sa che hai le idee più chiare tu su questa. No, in realtà no. Comunque, full sequel, allora, reboot, quindi abbiamo Doom nel 2016, che ha riportato, e Doom Eternal quest'anno, che hanno riportato sulla, diciamo, in prima scena, una vecchia saga, un vecchio nome, mettendolo sopra un gioco che in realtà di Doom ha solo l'anima. Diciamo, solo l'anima e vabbè, anche il genere. Sai cosa si potrebbe considerare abbastanza reboot, magari? I due titoli dei Pokémon, Pokémon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu, che dovrebbero tecnicamente rappresentare il ritorno ai primi giochi, quelli Pokémon rosso e blu, però in uno stile completamente diverso. Quello forse si potrebbe definire reboot. Forse è a metà tra un remake e un reboot quello, perché comunque sono praticamente Pokémon giallo rifatti, in teoria. Insomma, sì, sono cambiate anche molte delle meccaniche all'interno, nel senso non ci si cattura più i Pokémon, sono diventati più simili a Pokémon Go. Che, ah, ok, allora no, allora, pardon. Ah, perché tu, non, è vero, non l'ho giocato ancora. No. No, quelli sono abbastanza diversi dalla saga in generale. Quelli li considererei abbastanza molto reboot, perché è praticamente Pokémon giallo e Pokémon Go fusi in un'unica okay. In un'unica versione. Mi mancava questa cosa, pensavo solamente che l'unica differenza fosse che potevi avere Onix e camminarci e andarci in giro sopra. Comunque vabbè, l'ultima categoria è full sequel, cioè prendere una saga che è morta da tanti anni dormiente da tanti anni, invece di fare un reboot e chiamarla Doom, cioè chiamarla con il nome e ripartire da capo e fare una cosa completamente diversa, fare un sequel come Crash Bandicoot 4, che uscirà tipo l'anno prossimo o forse fra un po' quest'anno. Come Duke Nukem Forever. Come Duke Nukem Forever, esatto. Cioè fare qualcosa che non ignora i titoli precedenti e non cerca neanche di reinventare la ruota, semplicemente cerca di un po' aggiornare e di continuare la storia per quei giochi vecchi, insomma. Altre citazioni che mi verrebbero sono StarCraft 2, che è tipo Blizzard l'ha annunciato dopo credo una decina d'anni di completo silenzio riguardo alla saga di StarCraft, ed è stato un po' un fulmine a ciel sereno. Ne avevo anche un altro che ovviamente adesso mi è sfuggito, volevo dire, c'era StarCraft 2, E poi qualcun altro, ma mi tornerà in mente. Dicevi, invece, tu? No, vabbè, questo, cioè, questo è un po' l'estremo del dire riprendiamo una vecchia IP insieme, se la battono un po' il reboot e full sequel, perché il reboot dalla sua ha libertà assoluta di fare quello che vuole, di riprendere un po' l'anima e stravolgere tutto. Full sequel invece si porta ancora con sé un po' lo spauracchio, cioè un po' questo peso della memoria, insomma, dell'aspettativa, perché deve comunque sia aggiornare che mantenere molti elementi, insomma, dal capitolo precedente. Quindi non lo so. Noi, diciamo, ci concentreremo per una di queste categorie, possiamo dire, vabbè, per quanto riguarda l'emulazione non c'è problema, perché l'emulazione è una cosa più di archivistica, cioè più di manteniamo in vita questi giochi semplicemente dando la possibilità di giocarli esattamente come erano, ma su piattaforme nuove. Quindi secondo me è quella più nobile, è la cosa più nobile che puoi fare in assoluto, è dare l'emulatore a qualcuno per poter giocare a un gioco vecchio. Una cosa che vorrei dire su questa cosa particolare è che fino a qualche tempo fa l'emulazione non era vista proprio di buon occhio, cioè c'era sempre l'idea che l'emulazione fossero più quelle persone che volessero trovare un modo di aggirare il sistema e poter giocare a giochi che non erano disponibili che non erano appunto loro disponibili in quel momento. E forse adesso le aziende un po' hanno rivisto la loro opinione anche, e se non sbaglio ci sono, oltre a quelle appunto, quelle riproposte di vecchie console che in tutto e per tutto sono emulatori delle vecchie console con i giochi che ci girano sopra. Ah no, io stavo parlando degli emulatori come programmi. Sì, sì, c'è il discorso. Beh no, anche quelli lì, se uno ci si pensa, alla fine tutte quelle piccole console che ha venduto la Nintendo, la Sony di recente, cosa sono? Alla fine sono delle... Non sono... Cioè, come dire, sono delle nuove... Nuovo hardware con del nuovo software per far girare i vecchi giochi, quindi si possono vedere anche un po' come emulatori. Quindi era giusto per... Sì, sì, sì, no, però dicevo, quell'operazione è comunque... per soldi, diciamo, cioè comunque dietro quell'operazione il fatto di vendere una nuova console, anche se costano poco, perché costano tipo 30 euro, comunque quello che dicevo riguardava più il fatto di creare gli emulatori. Queste diciamo mini console retro sono un po', come dire, cioè mi sanno un po' di Amiibo, cioè mi sanno un po' di... Capito? C'è un po' di soldi facili, non assolutamente. Soldi facili per collezionisti, per gente che veramente sta con... che veramente si spara la nostalgia endovena tipo in Watchmen. Cioè proprio stanno drogati di roba vecchia, così. Quindi, però anche il fatto che le aziende, come dire, forse adesso un filino meno non è ostracizzare la parola che stavo cercando, come dire... non lo fanno così sembrare così cattiva l'emulazione, ha fatto anche aumentare, no, questa passione, perché se ci si guarda in giro adesso ci sono delle community dedicate all'emulazione che sono molto cresciute, ci sono tutti i vari programmatori che per passione si mettono a programmare appunto questi emulatori di vecchie console e poi che creano community molto affiatate. Certo. Finché la Nintendo non poteva farci soldi era il male, emulare le ROM. Adesso che ci può fare soldi, no, va bene, sì. Prendiamo gli emulatori, compriamoli, quelli siamo noi, Virtual Machine. Vabbè, ok, comunque. Ah, il capitalismo. Il capitalismo, che bellezza. Comunque, beh, lasciamo perdere un attimo gli emulatori e passiamo a The Remastered. Quindi... ora cominciamo un po' più a andare un pochino più in dettaglio, perché alla fine Remastered vuol dire che tu con coscienza hai preso sto gioco e lo hai rimaneggiato, quindi qualcosa hai fatto, un investimento lo hai fatto per quel gioco nello specifico. E perché dovresti voler fare una Remastered nello specifico? Beh, se parliamo proprio solo di remastered in cui viene toccato veramente poco, può essere lì, può essere anche un po' la volontà dell'autore, magari di quel gioco un po' più d'autore che di case produttrici, che magari vuole sfruttare una nuova tecnologia, qualcosa di migliore, le migliorie grafiche per raccontare meglio la storia che ha creato. Un gioco che si basa su ambientazione e atmosfera con le migliorie dei nuovi sistemi di sicuro può essere vissuto meglio, può essere meglio rappresentato. Però le remastered, cioè io le remastered le vedo un pochino come, cioè un po' male, tra virgolette, nel senso, cioè, ti spiego. Prego, spiega. Allora, per me, che non ho mai giocato Shadow of the Colossus o Ico su PlayStation 2, a me ha fatto piacere poterci giocare su PlayStation 3 quando è uscita la remastered. Certamente. A me personalmente. Ma dal lato dell'industria, come diceva anche Salla, si potevano investire meglio quei soldi? Cioè, si poteva fare qualcos'altro invece di semplicemente riproporre lo stesso identico gioco su una nuova piattaforma? Ovviamente, cioè, la risposta può essere sì, nel senso, se devi scegliere dove investire i soldi, meglio che li spendi in qualcosa di nuovo, magari, per appunto creatività, per tutto quanto. Ma anche no, perché appunto io che non ci avevo giocato, ho avuto occasione di giocarci e i soldi che hanno fatto con questi con questo investimento, con questo diciamo rilascio nuovo, magari ci hanno finanziato The Last Guardian oppure il remake completo per PlayStation 4 di Shadow of the Colossus Remastered Plus, scusa. Diciamo che questo non è, come posso dire, quantificabile, cioè non puoi dire ok, non puoi dire quanti di quei soldi sono andati a finire lì, non puoi dire, cioè, almeno senza le ricevute dell'azienda, no? Esatto. No, beh, è impossibile, quindi magari sono andati tutti quanti a finire nelle tasche di uomini di affari giapponesi. Però una cosa che hai detto tu quando abbiamo fatto la discussione con Salla era magari fra 10 anni un ragazzo che ci ha giocato su PlayStation 3 con la remastered, che ha avuto occasione di giocarci su PlayStation 3 perché era l'unica console che aveva, magari è ispirato e ci fa qualcosa di nuovo con quell'ispirazione. Avevi detto qualcosa del genere, o sbaglio? Sì, certo, un po' l'idea di base è un po' come magari per altre cose come film o libri, opere letterarie, quadri. Tu non hai bisogno di ridipingere il quadro su una nuova tela, di necessariamente ristampare il libro, o cosa del genere. Inteso, per altri media, per altri tipi di arte, tra virgolette, non è così necessario questo lavoro di continua ristrutturazione, perché si rischia di perdere l'esperienza in sé. Mentre per i videogiochi ogni tanto bisogna forse nel futuro, purtroppo. Però sì, cioè, anche per i videogiochi a un certo punto, cioè, per poter mantenere viva l'opera in sé, per poter fare in modo che possa essere vissuta anche da altre persone, oltre a solo quelle che erano presenti quando è stata rilasciata la prima volta, ci bisogna fare forse anche cose di questo genere, cioè riproporla su nuove console, nuovi con delle migliorie per renderla più accessibile, eccetera, eccetera. Non penso che, per esempio, questa è un'esperienza che mi è capitata a me personalmente, adesso quando provo io a rigiocare vecchi giochi che hanno fatto la storia ma che si sente che sono vecchi, faccio molta fatica perché ormai sono abituato a come dire, nuovi stili di gioco, nuove come dire, esperienze più moderne, mettiamola così. Io ho giocato a Final Fantasy VII, l'ho ricominciato 3 volte. Metal Gear Solid 1 l'ho cominciato due volte e sono quasi arrivato alla fine del primo disco. Esatto, si fa fatica di questi tempi per come siamo stati abituati, per come l'industria cresce, il media in sé cresce, a riprendere in mano titoli che hanno fatto sì la storia, ma che si nota ora avere carenze di qualche tipo, soprattutto nei controlli, nell'interazione con l'utente, nel metodo in cui anche narravano la storia. E queste riproposte, questi remake, remastered, reboot, eccetera, eccetera, possono essere un buon modo per far continuare questa legacy, questa loro... mi sta sfuggendo il termine italiano. Questa loro eredità per un nuovo pubblico. Io lo vedo molto difficile che un ragazzino di 10 anni di oggi si metta a giocare il primo Crash Bandicoot piuttosto che il remake per le nuove console. Ed è un peccato, perché comunque Crash Bandicoot ha fatto la storia quando è uscito, è stato un videogioco molto popolare e per un motivo ben preciso. Cioè, il fatto è che è più difficile giustificare il remake di un film se non è qualcosa che lo stravolge completamente, se l'autore non vuole fare qualcosa di nuovo con quest'idea. Esatto, perché alla fine un libro lo ristampi, un dipinto fai un po' di ristrutturazione, no, non è il termine. Sì, ristrutturazione, sì, ok. Un film al massimo lo puoi ridistribuire sai come quando c'erano i DVD e poi dopo lo rimettevano sul Blu-ray, magari con qualità un po' migliorata, se si può fare l'analogia con i videogiochi. I videogiochi, anche per fare un remake, non è così facile, perché non cambia solo il formato del film come può essere per il mondo del cinema, ma per come cambiano le console, i PC e tutte le macchine andando sempre più avanti. Per i videogiochi ci vuole un lavoro più grande per poter essere portati avanti. Ed è giusto che questo lavoro venga anche retribuito se è così impegnativo. E quindi diciamo, ok, perché nel frattempo ci siamo persi un attimo, siamo passati alla seconda e alla terza parte. Quindi chiudiamo un attimo il discorso. Remastered vanno bene e diciamo... costano poco di solito e sono solamente portiamo questo gioco per una console vecchia a una console nuova, a un PC, e rendendoli accessibili e basta. In un mondo ideale non sarebbe assolutamente necessario fare il remastered, ed è assolutamente un discorso, secondo me, di soldi dal punto di vista dell'azienda, perché non entra in nessun momento la creatività, non c'entra niente la creatività con una remastered. In questo caso no. Ed è solamente l'unica cosa, diciamo, positiva per la creatività dell'industria, quello che abbiamo detto, cioè rendere accessibile questo gioco a una console nuova, a un ragazzo nuovo che ci si vuole approcciare. Ma la verità è che spesso, appunto, cioè, prima di tutto in futuro sarà inutile, spero, perché in futuro magari sarà più facile emulare, più facile portare un gioco da PS4 a PS5 o da Xbox One a Series X, eccetera. Quindi spero che sarà una cosa che andrà a scemare, che andrà un po' a scomparire, perché secondo me ha più senso o lasciarlo com'è, e quindi chi lo vuole recuperare se lo recupera appunto con emulazione o con retrocompatibilità di base, cioè tu lo metti nella console nuova, nel PC nuovo, e il gioco funziona e basta, senza fare nulla, che è un po' un'utopia, ma spero che ci stiamo andando. Conviene anche definire cos'è la retrocompatibilità, perché effettivamente c'è. Ah, la retrocompatibilità, sì, velocemente. Io compro una PS5, ci girano i giochi del PS4. Questa è retrocompatibilità, vuol dire compatibile con giochi di titoli della console precedente, della generazione precedente. Ricordiamo che la Nintendo spingeva molto, anche ha spinto sempre un po' molto sulla retrocompatibilità, perché ogni sua nuova console di solito era sempre compatibile con i giochi di quella precedente, quindi... Hanno smesso pure loro. E poi hanno smesso pure loro, ovviamente, perché purtroppo... Diciamo dal punto di vista dell'hardware, proprio della console fisica, di come è fatta dentro, era molto difficile da fare fino a questa generazione, perché erano tutte molto diverse fra di loro. le uniche console che erano quasi uguali fra di loro sono Wii e Wii U. Infatti la gente non ha comprato Wii U perché pensava fosse la stessa cosa. E Xbox One e vabbè, One X ovviamente, ma anche Series X saranno molto simili. PS4 e PS5 saranno molto simili. Non riesco a pensare a un momento nella storia dove ho detto, cavolo, queste console sono talmente simili che è inutile, cioè sarebbe... ci devi impegnare a non farla retrocompatibile, insomma. Però ora stiamo arrivando un po' a un'architettura universale, quindi tutte quante le console sono molto simili a PC, è tutto molto più fluido, tutto molto più semplice, e quindi spero che scompariranno. Invece il discorso Remastered Plus che dicevi, cioè il ragazzino che magari giocherebbe a Crash Bandicoot non ci si avvicina perché è molto datato dal punto di vista grafico, è molto... cioè, magari io che ci ho giocato da piccolo lo vedo e lo guardo con i nostalgia goggles, con gli occhiali della nostalgia, che filtrano le cose brutte e mi sembra bellissimo, però un giocatore nuovo, un ragazzino nuovo che ci si avvicina, che è sta merda, sembra un gioco per cellulare fatto male. Quindi cioè, ha senso renderlo sexy, renderlo nuovo e diciamo rispolverarlo e ricorreggere tutta quanta la grafica. E questo è un lavoro che sulle console ha molto senso, perché molte delle cose che si facevano fino appunto una decina di anni fa erano dovute a limiti tecnici, non volontà autoriale. Poi c'era il genio autoriale dietro a Shadow of the Colossus. C'era il modo di fare livelli in Jak and Dexter che li rendeva enormi ma fattibili. Però, ripeto, cioè, era tutto dovuto inizialmente a un problema, a un limite tecnico, non un limite di budget, non un limite autoriale autoimposto, diciamo. Esatto. E per concludere questa parte, quell'idea, quello che avevi detto prima, non in questa... almeno per le remastered, la creatività effettivamente non c'è. E sono d'accordo, per fare una remastered non c'è bisogno di nuova creatività, non ci sono bisogno di nuove idee, devi semplicemente... è un lavoro meccanico, se si potesse fare il programma per rimasterizzare tutti i giochi, penso che le industrie apprezzerebbero molto. Ti sputerebbero fuori un nuovo titolo ogni 5-6 mesi e sì, se la godrebbero nelle loro spiagge vicino a... sto delirando, no, ma ed è vero, non c'è bisogno di creatività per fare la remastered, ma effettivamente forse si può vedere questo come una specie di investimento, magari il permettere al nuovo pubblico di rivivere queste esperienze, un po' come quando un po' per lo stesso motivo con cui si ristampano i vecchi classici della letteratura, è perché poi questi classici possano poi essere di ispirazione per la nuova ondata di designer, la nuova ondata di creatori di videogiochi, per appunto ispirarli a fare qualcosa di nuovo. Uno di... no, non ho nient'altro da aggiungere, era solo questo. Sì, c'è poco da dire di positivo sulle remastered. Sì, nel senso, si spera che poi il loro effetto si venga poi a far sentire, che magari anche tra 10-20 anni ci saranno giochi che riescono a toccarti un po' come Shadow of the Colossus o The Last of Us, cose del genere. E quindi, vabbè, dicevamo, chiuso il discorso Remastered, abbiamo parlato un po' del Remastered Plus, abbiamo detto quindi che serve un po' per presentarlo a un nuovo pubblico, a un'utenza, serve rimaneggiare molto la componente grafica, e il lavoro che c'è dietro spesso viene un po' ignorato. Cioè, il lavoro che c'è dietro a una remastered pass, secondo me, ha già della creatività che va un po', che a volte viene un po' ignorata, perché non è solamente nel gioco originale hanno fatto un cavallo, adesso faccio un cavallo però meglio. Non è solamente questo. Cioè, se nel gioco originale c'era un disegno tutto particolare, tutto strano, rococò, barocco, così, ma lo vedevi tutto quadrettato perché i limiti erano quelli, erano tutti pixel grandi come un dito, cioè... rifarlo da capo, nel riprendere quei disegni, rifarli come, cioè, secondo l'intenzione dell'autore, se non hai l'autore, tu non sai qual era l'intenzione, o magari non se la ricorda manco lui. Se non hai l'originale, non puoi sapere cosa c'è dietro molte delle scelte fatte per risparmiare risorse hardware, perché erano talmente limitate che a volte rimaneva solamente un minimo di quello che era l'intenzione dell'artista. Quindi ho visto, che ne so, il commento audio di Grim Fandango, che è un gioco d'avventura, non mi ricordo per quale piattaforma, forse sempre PC, dove praticamente il personaggio principale che tu comandavi e anche altri personaggi erano in 3D, ma gli sfondi erano finto 3D, cioè sembravano in 3D ma in realtà erano immagini renderizzate. Mm-hmm. Questo credo rifare... anche in molti Final Fantasy tipo... esatto. E nel rifare quella remastered mi sono accorto, cioè anche sentendo un po' i commenti dell'audio degli sviluppatori, che hanno fatto un lavorone, perché molte delle cose che hanno pulito, che hanno reso più chiare e hanno rifatto da capo, io non ci sarei mai arrivato a capire cosa fossero. Cioè, non avrei mai, diciamo, ricostruito l'idea iniziale, non sarei mai riuscito a ripulire come hanno ripulito loro. Ed è infatti una cosa che, per esempio, in Final Fantasy VII, la versione per PC dell'originale, quindi non il remake, ma la remastered per PC, hanno fatto male, perché non sono messi lì a cercare di aumentare la risoluzione, a capire qual era l'idea dietro, no, semplicemente hanno portato e basta, lì, pronto, fermo, e a risoluzioni più alte è proprio fatto, cioè sembra fatto male, è proprio brutto da vedere, perché non è che lo stai guardando su uno schermo tubo catodico, quindi è tutto un mischiume e più o meno il tuo cervello riempie i buchi, no, lì è tutto bello pulito, ma fa tutto schifo. Cioè, se lo guardi, cioè, è tutto bello spixelato. Quindi, diciamo, va apprezzato il lavoro, secondo me, di molti artisti, di molti designer che si mettono lì a pensare a come aggiornare, a come ammodernare il look, lo stile, a ripensare l'intenzione, all'atmosfera, perché, appunto, è una cosa che puoi sbagliare, come hanno sbagliato in Final Fantasy VII, dico la remastered, come hanno sbagliato in remastered pass come Halo 1. Se tu guardi Halo 1, cioè Sabaco ha fatto una run, una blind run, che poi l'ha giocato di nuovo ma in versione remastered plus. Quando lo ha rigiocato, cioè ha notato, cavolo, cioè, alcuni livelli cambiano completamente l'atmosfera, cambia completamente da c'è un livello di Halo 1 che sembra di giocare a Resident Evil, cioè sembra, è tipo tutto buio, tutto intenzione così. Se lo giochi in Remastered Plus, tutte luci, capito? Tutto blu, verde, tutta una cosa, capito? Che ci sta, però, capito? Cioè, vai contro l'idea. È un pessimo esempio di come dovrebbe essere sfruttata una Remastered. Sì, secondo me è un cattivo esempio. Cioè, per me, assolutamente. Se il tuo intento è di fare una Remastered Plus, i tuoi sforzi creativi non sono nel cambiare tutto, ma nel cercare di mantenere il sentimento, di mantenere l'idea, ma aggiornarla, che è una cosa spesso difficile, se non impossibile da fare, perché è quello che serve. Cioè, tu hai questi nuovi limiti più, diciamo, permissivi per poter esprimere quest'idea. Quindi la stai semplicemente dicendo, ok, questa è l'idea, come si sarebbe espressa oggi visivamente? E quindi la aggiorni. Quindi per me la Remastered Plus ha questo come, diciamo, vantaggio creativo, diciamo. Viene sempre da un posto brutto, che è volerci fare soldi sopra, ma secondo me è più, ha più senso. Cioè proprio la aggiorni e la fai, la porti a nuove persone che magari non hanno mai provata, e oppure proprio hai un'idea che ora sembra nuova perché manca, no? Come diciamo prima, il fatto del buco, sono idee che sembrano di nuovo fresche dopo tanti anni che non vengono esplorate. Non so, hai altri intuiti o altre cose da dire sulle Remastered Plus? No, direi di no. Dipende, forse, non so, si può aggiungere anche... No, sinceramente non avrei molto altro da... Ok. non saprei bene cosa aggiungere in questo caso. Mi sono acceso. Fatto bene. E alla fine niente, cioè, che cos'altro dire su i remake? C'era un altro punto bello che avevi fatto tu invece questa volta, la discussione precedente, in cui riguardo quei remake in cui c'era più un lavoro da parte degli sviluppatori. Qua, in quei casi in cui si andava più a modificare l'esperienza di gioco, quando si roba remake, proprio remake, esatto, poteva appunto uno dei vantaggi del riproporre un vecchio gioco con un cambiamento nel suo gameplay era magari, come avevi detto tu, quello di poter utilizzare questa esperienza, questa prova, questo trial per sviluppare nuove tecnologie, nuovi design che poi sarebbero stati sfruttati meglio in un titolo successivo. Ah, l'ho detta io sta cosa? Cazzo, da quanto mi ricordo, avevi fatto notare tu che a volte alcune di queste case utilizzavano i remake come un colpo sicuro, un qualcosa che sapevano che gli utenti avrebbero comprato, anche per testare nuove tecnologie, nuove idee che poi magari avrebbero potuto sviluppare in un titolo successivo, magari non neanche nemmeno della stessa saga, ma semplicemente qualcosa di completamente diverso, ma con i feedback ricevuti con questi titoli avrebbero potuto guidare meglio il team di sviluppo per il gioco successivo. Ma tu dici tipo, che ne so, Resident Evil il remake, alcune cose che hanno aggiunto nel motore grafico e nelle meccaniche magari faranno capolino il Resident Evil 8. Assolutamente, non vedo senso. Perché sì. Sia un ottimo esempio. Ma anche sì, questo anche nel Remastered Plus è un po' vero, cioè molte delle tecnologie che vedremo che abbiamo visto nella trilogia di Crash Bandicoot saranno sicuramente nel 4. Molto probabile. Molte delle cose che faranno in Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, la Remastered Plus, in realtà forse quello sarà più una specie di remake per quante cose cambieranno a livello di meccanica, e questo secondo me darà un po' un trampolino di lancio a un futuro seguito, quando lo resumeranno, no? Perché di solito è così, cioè tu è un po' per tassare il terreno dal punto di vista economico, tu dici, oh, quanta gente ancora è interessata a Tony Hawk? Assolutamente. E un po' è, fin tanto facciamo qualcosa, cioè mettiamo insieme tutte le cose migliori di Tony Hawk's Pro Skater, facciamo un po' un overhaul, cioè una ricostruzione completa della base di gameplay e poi andiamo avanti da lì, cioè. Mm-hmm. Tipo, ho sentito che nei primi due Tony Hawk's Pro Skater non c'erano i reverse, tipo, non potevi cambiare da destra a sinistra il trick. Non lo so, un discorso molto tecnico, non ho aggiunto da tre perché così non le combo. Non mi è mai capitato di giocare Tony Hawk. I giochi di Tony no, Hawk. È tutto un universo a parte Tony Hawk, una roba strana. Comunque sì. Infatti, di questo non ci sono ancora molti esempi, perché se adesso è il periodo dei remake, si spera che poi il periodo successivo sarà quello dei giochi che hanno sfruttato un po' quello che hanno scoperto con questi remake. Quindi, non so, tra un paio d'anni ci faremo risentire con esatto. Il seguito con il remake di questa puntata. Quindi diciamo, arriviamo un po', secondo me, perché vabbè, poi i reboot sono quasi dei giochi nuovi, secondo me. Il reboot per me è dire, che ne so, la Microsoft Fable è morto, non c'è più, non esiste più Lionhead, non c'è più niente. Prendiamo il titolo Fable, che comunque attira attenzione mediatica, attira fan, e lo schiaffiamo su un titolo nuovo, che è quello che faranno sicuramente. Mm-hmm. E secondo me è win-win, perché dal punto di vista economico l'azienda dice non rischiamo tanto a fare un gioco nuovo, e dal punto di vista diciamo creativo dice abbiamo libertà di fare qualsiasi cosa, basta che ci sia un minimo l'anima di quello che è Fable, che è comunque ancora valida. Secondo me un altro bel esempio che c'è stato negli ultimi tempi è stato Prey e Prey, cioè, sì. Cioè, se non è un esempio quello, hanno preso letteralmente di chi era? Era della Bethesda, Prey, non mi ricordo. Sì, sì, sì, era un nome che comunque aveva un minimo di culto, cioè di un cult. Esatto. E niente, la Bethesda ha detto, ah, stiamo per far uscire Prey. Ah, e tutti si aspettavano un remake, una remaster del primo Prey. No, un gioco completamente diverso. Io a quest'oggi non ho ancora ben capito. C'entra qualcosa, però. Ok, se c'entrava. Quindi hanno usato il nome di qualcosa. Hanno usato il nome di questo qualcosa, di questo universo, di questa IP che avevano già creato, questo Prey, e l'hanno appiccicato un po' con lo sputo su un gioco completamente nuovo e la cosa e bella è che anche il sequel di Prey, che non è mai uscito, Prey 2, pure quello era completamente diverso, non c'entrava proprio un cazzo con Prey, poi si chiama Prey 2, vabbè, comunque è quella quindi la differenza tra un reboot e un full sequel, il nome se ci metti un 2 dopo. Ma ci sta, perché cioè qui torniamo un po' alla domanda di Salla, perché la creatività è morta, nel senso questi soldi che tu comunque spendi perché costano delle remastered plus, i remake e i reboot, non li potresti buttare per fare un titolo completamente nuovo? Ora, secondo me, se devi fare un seguito e cioè se devi fare un sequel e buttare i soldi su quello, forse no. Cioè, un sequel magari ha più ragione di esistere perché magari l'autore vuole esprimere altri concetti, altre idee, ma come dire, se viene male, cioè è facile che viene male, se viene male sei più deluso perché è più, come dire, ha più aspettative di creatività, di cose nuove, no? Di un po' di aggiornamento così. Dici quello che forse avevamo cercato di argomentare anche con Salla la volta scorsa, era che la creatività muore di più non tanto quando sfrutti queste vecchie idee riproponendole uguali, ma magari quando provi qualcosa di nuovo e vedi che effettivamente non ti è uscito nulla di buono, oppure ti è uscito qualcosa che si vede palesemente è giusto qualcosa che hai fatto per fare altri soldi. Sì, esatto, un sequel per altri soldi, sì. Esatto, sapendo che c'è gente che ama quella storia, quell'IP, e tu l'hai sfruttata brutalmente a fini di lucro, senza metterci qualcosa di veramente interessante, senza essere veramente creativo. Perché poi cioè, è proprio più difficile peggiorare una... cioè sono degli esempi, non è impossibile, però è difficile peggiorare con una remastered di un gioco, è molto facile peggiorare con tutto il resto e soprattutto con un sequel se fatto con poca voglia. E qui c'è un concetto pure interessante che ho sentito, cioè qui più in generale sui film, che a volte parlando con i produttori viene fuori questo concetto che un IP, un franchise, fa più soldi da morto, fattura di più da morto. E ci ho messo un sacco per accettarla questa idea, perché per me non ha senso. Dici, cavolo, ma cioè, che soldi fai se non fai un prodotto nuovo, se non lo usi? Ma in realtà fare qualcosa di nuovo con un IP porta sempre il rischio di svalutarla, di renderla... di renderla una cosa che non attrae più pubblico, attenzione. Cioè, quanti Resident Evil sono usciti? Quanti Resident Evil sono usciti brutti? Cioè, la serie è quasi morta a forza di farci spin-off e cose brutte. Resident Evil ormai è morta. È bastato un gioco per farmi calare tutte le speranze che avevo di Metal Gear Solid post Kojima con la Konami. Cioè, è sempre un rischio in realtà usare un IP preesistente e ben vista. Quindi non è solamente, facciamo uscire un remake, una remastered, che tanto ci facciamo i soldi facili. No, non è così facile, e con i giochi non è neanche così secondo me, moralmente sbagliato, come magari Salla odia questo termine moralmente, cioè non è neanche così... questi soldi potevamo usarli per fare altre cose, perché appunto è talmente legata alla tecnologia ancora, la creatività degli artisti, che può aver senso investire un po' di soldi in questo, piuttosto che la Disney che investe soldi nel fare Aladdin, o nel fare... per la decima volta, perché anche se magari io dovrei guardare Re Leone, perché tecnicamente è un passo avanti per tutti quel film, posso dirti, cioè, non è che i film vecchi fossero invecchiati male, perché comunque sono cartoni, sono, o anche un film normale, cioè meno legato alla tecnologia e meno legato a quello che potevi fare. Anzi, nel caso di Aladdin, per me il film precedente, il cartone, ha più anima di quello nuovo in molti momenti. E non è solo per un discorso di nostalgia, è proprio una conseguenza del fatto che sia animato. E questo in generale, cioè, non ha. Secondo me, un buon esempio, sempre per rispondere, cerchiamo di rispondere a questa domanda: se la creatività è morta, secondo me. Un buon esempio che hai fatto di questa cosa qua, sul tuo ultima argomentazione, che a volte alcuni IP valgono di più da morte che da vive, secondo me si può un po' vedere con i Resident Evil, perché se ci ricordiamo, più la saga di Resident Evil andava avanti, più diciamo il successo un po' sciamava. C'è stato, penso che il crollo più basso della, sì, diciamo, la popolarità della saga è crollata molto con il 6, se non ricordo male, che mi sembrava fossero tutti un po' d'accordo che faceva abbastanza cagare. Però a dimostrazione che la creatività non è morta, con i titoli successivi, per esempio il 7, in cui c'è stato un po' quasi un rebranding della saga, che non era più tanto non era più molto sparatutto, ma era più quasi come titoli che somigliavano magari a dei Outlast, grazie. Hanno dimostrato che i creatori della saga avevano idee, cioè potevano, con il giusto incentivo, cioè gli utenti che non compravano più il gioco, hanno visto che si sono dovuti rinnovare un po' e hanno portato di nuovo qualità. E allo stesso modo, gli ultimi titoli usciti, i remake di Resident Evil 2 e 3, hanno dimostrato che nel riproporre questi vecchi titoli in una maniera completamente nuova c'era assolutamente creatività ancora nella casa produttrice. Quindi la Capcom si è data un po' una svegliata dopo aver visto tutto quello che era successo e ha detto: adesso facciamo qualcosa di veramente buono. Quindi la creatività non è morta, questo di sicuro, perché se guardiamo anche tutti i titoli indie, le nuove IP che ogni tanto saltano fuori, non dalle case produttrici di grande entità, quelle colossali, ma dagli studi un po' più piccoli, di sicuro si trovano delle piccole gemme. Però per come si è sviluppata l'industria, di sicuro questa modalità capitalistica di fare videogiochi, cioè con gli investitori che vogliono avere dei ritorni sicuri e di anno in anno vogliono essere pagati, quindi le case sono costrette a proporre un titolo nuovo almeno una volta all'anno o al massimo anno e mezzo, altrimenti no, i dividendi non ritornano, di sicuro non sono un terreno fertile per la creatività. E starò dicendo cose banalissime di cui si sarà parlato in chissà quante opere artistiche, creative e cose del genere, che però, voglio dire, ripeterlo un'altra volta ancora di certo non fa male. Quindi no, Salla, io sono convinto, e questo mi rivolgo proprio a te, quindi ciao nell'auto mentre vai al lavoro, sono convinto che la creatività non sia morta, solo non viene coltivata tantissimo nell'ultimo periodo. Io invece mi riferisco a Luca, che è l'altro dei nostri due ascoltatori, e dico che sì, personalizzati sono messaggi personalizzati dentro il podcast. No, perché gli avevo un attimo parlato di questa domanda di Salla, di questo argomento, e mi aveva detto che praticamente lui ripensava un po' la Disney, ripensava un po' a questi remake così, e è una cosa che in realtà gli avevo detto io, non mi ricordo riguardo, forse riguardo l'Amazon, non ricordo, del fatto che ogni azienda abbastanza grande, per forza di cose, è malvagia. Oh, sì. Cioè, quando arrivi ad una certa dimensione, scatta qualcosa, tipo, non so, ti arriva un messaggio dall'inferno, ti arriva il robo diavolo da Futurama, e da quel momento in poi sei cattivo, per forza. Perché per mantenere in vita, in piedi, questa enorme multinazionale, per forza di cose devi fare cose di merda, devi fare cose disumane, proprio perché non è più, non c'è più umanità nel, come posso dire, nelle scelte di affari. C'è un aggregato di statistiche, di, capito, investitori, cioè di cose esterne, e quindi non è semplicemente io che scelgo su cosa investire perché, che ne so, questo e quest'altro. Cioè, no, è tutto una specie di globo di carne e soldi. E per forza di cose è fatto per fare soldi, è fatto per autosostenersi, non è fatto per fare cose belle o cose... Magari sì, qui c'è... Tu dici il suo focus, se... All'inizio la casa produttrice, l'azienda era partita con il focus di creare qualcosa di interessante, essere creativi. A un certo punto, per come funziona l'economia di questi tempi, deve per forza far cambiare il suo focus dall'essere creativo all'essere remunerativo. Quindi il suo focus dal creare qualcosa di bello passa al creare qualcosa che possa fare soldi in fretta per i vari investitori, e ovviamente si nota questo cambio di paradigma, no? È inevitabile. Però questo è anche dovuto a altre cose, tipo che ne so, il fatto che comunque ci siano tanti soldi nelle microtransazioni, free to play, nei mercati tipo la Cina, tutto questo, diciamo, questo sfasamento nel pubblico, nel target di utenza è una parte. Un'altra parte sono gli aumenti dei costi di sviluppo, perché sviluppare un gioco ora e anche nei prossimi anni per le nuove console è un investimento enorme. Mm-hmm. Cioè, io ho visto il budget per Microsoft Flight Simulator, mi sono spaventato. Cioè, leggere i budget tipo di Psychonauts 2 o di roba tipo GTA, cioè GTA 5 che costa una roba tipo 100 milioni, 200 milioni, non ricordo, ovviamente ne ha fatti 10 volte tanto, però dico, non puoi andare da un editore, un publisher e dire voglio fare questo gioco, dammi 100 milioni, cioè comunque sono molto più limitate le cose che puoi fare con quel budget, e secondo me una soluzione sarà limitarlo, fare titoli più piccoli, più limitati come ambizione tecnica, diciamo, ma con un po' più di libertà di gameplay, come posso dire, di stile. Quindi questo sarà, forse, spero, una soluzione. D'altra parte, però, anche a livello di sviluppatori, volevo fare una piccola nota. Cioè, se uno sviluppatore è troppo grande, pure quello, cioè non i manager, cioè non il publisher, gli editori che danno i soldi allo sviluppatore, ma proprio quelli che fanno fisicamente il gioco, se anche loro sono troppo grandi, tipo la Bungie o tipo la Blizzard, mm-hmm. cioè anche lì si rischia di fare un gioco, o anche Assassin's Creed, un gioco si chiama per... Come si chiama quando c'hai... Tipo da concilio, no? Cioè tu hai... un concilio di persone, hai un team di persone, una squadra, sì. Che decide cosa fare nel gioco, che non è una cosa brutta di per sé, però non hai una visione coesa, perché a un certo punto quella squadra è talmente grande che il design del gioco si appiattisce, diventa un po' un insieme di... Non è più un gioco d'autore, ma... Cioè, non c'è più... Non so come dirlo. Cioè, non c'è più una visione unica di un gruppo di persone ristretto, sì, per cosa va fatto in ognuna di quelle aree, ma un insieme di visione di quelle persone e cose che vengono dall'industria, pressioni non economiche, proprio pressioni creative, non so come dirlo, è difficile da spiegare. Cioè, perché in Assassin's Creed ci sono i livelli delle armi? Perché c'è il crafting? Cioè, nel senso, perché il crafting è ovunque? Perché gli alberi delle abilità sono ovunque? Non è solamente un gruppo di persone che voleva fare un gioco più RPG, è proprio una cosa diffusa in ogni gioco ora. Cioè, in ogni... Non lo so. Sembra banale, ma semplicemente quando la tua libertà creativa non dipende più da te, ma quando sei dipendente da qualcuno che deve pagare il tuo stipendio, che ti paga per fare quello che fai, questa libertà creativa viene assolutamente ristretta e ogni tanto nel gioco si insinuano opinioni, richieste, idee, se così si possono definire, di terze parti, di quelle persone da cui dipende il tuo stipendio. E di sicuro se anche, mettiamo che anche un team di sviluppo anche di dimensioni grandi, ma che comunque aveva un'idea ben definita, non si può esimere da dover piegare la testa e accettare che ci sia qualcuno al di fuori di loro, che probabilmente ne capisce molto meno di loro di design del genere, che però vuole una certa qualcosa e vuole che il gioco risponda a questi termini, e sì, e quindi è la classica, è l'eterna storia di se quando un artista diventa più un impiegato che qualcuno che si mette a fare. Cosa sto cercando di dire? Non lo so nemmeno io. Però è sempre quella la storia, cioè è questa favola che si racconta ormai da decenni, da quando si sono sviluppate le industrie per come lo sono. È successo col cinema, è successo forse un po'... Se quella in cui rimane ancora un po' meno, in cui succede un po' meno, è la parte letteraria, forse l'industria letteraria, in cui alla fine gli autori sono uno, puoi influenzarlo un po', ma l'idea di base è quella. Però a volte sono uno. A volte. Però per tutte quelle industrie in cui è necessaria una collaborazione e ancora di più grandi fondi per creare qualcosa, tutti i film di Hollywood, di videogiochi in questo caso, qualunque, devo mettere grandi per gli artisti, anche per i musicisti con la musica, cose del genere, è impossibile che l'opera, magari che all'inizio era di una singola persona, di un autore, poi non diventi della collettività di tutti quanti. Quindi... Ma cioè, quello, nel senso, per me ci può stare che diventi di più di una persona, quello che non ci può stare è che diventi una specie di vomito di duramente alveare, non so come dirlo. Cioè, un conto è... Penso che... Come? No, scusami. Ok. Stavi laggando. Ok. No, niente, dicevo, penso che... Dipende quanto vogliamo entrare in politica con questo cioè... giochi. Però sì, cioè... Allora, mi tengo un attimo concentrato. Va bene fare roba tipo The Last of Us, va bene fare, che ne so, Inception, non va bene magari... Adesso sto per fare una cosa che non dovrei fare, va contro tutto quello in cui credo. Ant-Man, Thor 2, cioè, nel senso, un po' capisco Salla che dice i film Marvel fanno schifo, non guarderò mai più un film Marvel, o anche Luca, perché quello è il rischio, cioè nel senso, tu fai solo roba buona, che va bene, non è brutta, però non c'è tanta anima. Sono pochi film Marvel, secondo me, che sono davvero film belli, cioè film con un'anima dietro, con un pensiero dietro. E è tutto, secondo me, derivato dalla capacità di un gruppo di persone di avere un'idea singola, buona e portarla a termine. È la stessa cosa per i videogiochi, solo che con i videogiochi è ancora più difficile perché hai anche bisogno di tecnologia, hai anche bisogno di accessibilità, cioè hai bisogno di strumenti facili da usare che possono ridurre il numero di persone necessarie a fare quello che devi fare. È una cosa che servono tanti soldi e tanto tempo per farle, purtroppo. Quindi io dico, è vero, la creatività sta scemando, ma non è ancora morta. Sta morendo, sta rantolando. Potrebbe morire, come potrebbe resuscitare un'altra volta. Non si sa. Cioè, spero che sia solamente un momento brutto, un momento basso, e poi ci sarà un altro picco, non lo so. Io sono più della visione che siamo in quel momento forse in cui come faccio a dirlo? È quel momento, è successo un po' in tutte le industrie artistiche, no? Come dicevamo prima, letteratura, un po' meno perché quella è rimasta abbastanza invariata, ma film, musica, cose del genere, quando si trova qualcosa di nuovo, quando si tende a voler trasformare queste cose che all'inizio erano un'espressione veramente artistica in qualcosa di più meccanico, più impersonale, più ha un'industria vera e propria, come può essere quella del metallo e della costruzione di ferrovie, con le industrie del campo artistico succede sempre che si arriva a un punto in cui ci si accorge che quello si perde la creatività per il guadagno. Ma non per questo vuol dire che la creatività sta morendo solo se poi noi lasciamo continuare questo stile, questo approccio alla cosa. Se ci pensiamo, all'inizio, quando prima che ci fosse tutta l'industria di Hollywood e tutto quanto, quando i film venivano fatti un po' più per, non c'erano tutti questi investitori per fare i film, venivano fatti un po' più anche lì per passione, sono nati forse più classici senza tempo, si parla sempre dei film di vecchia data, di quanto fossero dimenticabili. Stessa cosa forse anche qua con i videogiochi. All'inizio siamo partiti con quelli che volevano utilizzare questo nuovo metodo di espressione artistica per creare qualcosa, per raccontare qualcosa, e adesso siamo a quel punto di cambiamento in cui l'industria si è trasformata in questo modo e gli utenti ora se ne stanno accorgendo. Ma secondo me perché anche, cioè, come dici tu, la passione di una persona che non ha i mezzi, esatto, è più difficile da trovare, perché sono negli indie che non hanno lo stesso risalto mediatico. Esatto. Quindi secondo me anche questo dà un po' l'impressione di più che sia morta la creatività, perché è più difficile, magari, cioè, è più raro. Magari può capitare un disco Elysium, capito? Può capitare un titolo che un anno fa il botto, tutti quanti ne parlano perché è talmente, diciamo, innovativo, oppure talmente strambo che ne parlano, però è raro, insomma, avere un disco Elysium che diventa famoso. Tutto qua, può essere anche un po' di bias mediatico. Quindi io sono convinto che la creatività non è morta e non morirà mai. Semplicemente non ci si può aspettare di trovare sempre creatività in industrie come quelle che, per come l'industria si è trasformata in questo periodo, cioè che quelle gigantesche creature che vivono di soldi, non possiamo aspettarci che sia da lì, che sia da quello il luogo. Mio Dio, non riesco più a parlare. Non possiamo aspettarci che siano quelli i luoghi in cui troviamo maggior creatività. Ci almeno sta. Non se continua in questo modo. Quindi, mamma mia, come si è trasformata. Mi è andata filosofica la puntata. Mamma mia! Spero che a Salla piacerà questo shift di idee. Ma in realtà Sal ha già sentito tutte queste cose, perché le abbiamo sparate l'altro scorso. Quello che però Sal non ha sentito è la parte che tutti amano di questo podcast, no? Perché siamo arrivati a quel momento. Ok. Kept you waiting, huh? Vai. Dopo, che cosa dire riguardo Kojima in quest'ambito? Anche lui siamo in quella... Ecco, lui può essere... Mamma mia, possiamo usare Kojima come esempio ultimo di questa, di questo discorso che abbiamo fatto, che se all'inizio si partiva come autore, no? Come singola entità creativa, come è cominciato lui, diciamo, come è successo con l'inizio più che di Metal Gear 1 e 2 dalla saga di Metal Gear Solid, ovvero con lui come autore che ha creato questa storia, questo mondo, questo universo narrativo che ha fatto un grandissimo successo e che ha fatto innamorare centinaia di migliaia di giocatori, e poi si è evoluto via via nei titoli successivi, fino ad arrivare, diciamo, un po' alla morte creativa di questo mondo, quando per via delle pressioni della Konami, soprattutto nell'ultimo capitolo di Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, qua di nuovo non si può confermare quello che stiamo dicendo, ma voci di corridoio affermano che l'autore sia stato abbastanza spinto dalla Konami per rispettare le tempistiche, il budget e tutto quanto del gioco, e il gioco alla fine ne abbia risentito. E si può notare. Ancor più se poi si pensa quando, come diciamo, la Konami ha cercato di mantenere in vita questa IP, di sfruttarla, questa volta abbastanza brutalmente, per come dicevamo, una volta che Kojima ha deciso di abbandonare il suo mecenate Konami per cercare nuovi orizzonti creativi. E mecenate, la Konami, proprio. Ti piace quando uso queste parole? Scamorfismo. E si è vista come la Konami ha voluto sfruttare ancora l'IP di Metal Gear Solid con l'ultimo titolo che... Com'era Metal Gear Survive? Non mi ricordo neanche il nome, tanto non l'ho... Cioè, cos'era? Era Metal Gear Survive? Non mi ricordo. Aiutami. Metal Gear Survive, dici? Era Metal Gear Survive, se non sbaglio. Sì, cioè sì. Il seguito... Anche se definirlo seguito... Seguito! Definiamolo così, di questo universo narrativo... Che no, cioè si vedeva che non c'era più l'influenza creativa di Kojima e ha floppato. E purtroppo adesso Metal Gear è diventato, non so se lo sai, Jacopo, in Giappone ci fanno le macchine del Pachinko di Metal Gear. Lo so. Che cos'è il Pachinko, Marco? È un gioco, se vogliamo, possiamo definirlo ancora nella nostra banca. Quindi il Pachinko è questo gioco d'azzardo giapponese che consiste nel far cadere delle sfere di metallo in una macchina per cercare... Cristo Dio! Non ho mai ben capito come funziona. Cioè tu praticamente lanci la pallina e quella cade su tutti questi piccoli pin. È tipo un mix tra una slot machine e un flipper, ma non saprei come dire in questo momento. Ma guarda, cade solo, cioè cade e va in un buco a caso, quindi... Cioè... Esatto, quindi sì, cioè in Giappone è un'industria talmente popolare di gioco d'azzardo che ci sono anche le case di videogiochi che fanno le macchine del Pachinko a tema, e dopo che Kojima se n'è andato dalla Konami, la Konami si è messa a fare le macchine del Pachinko di Metal Gear, con Snake e tutta la banda che esulta quando fai il jackpot. Ti hanno rifatto tutti i matrimoni del Gear Solid 3 per la macchina Pachinko. Io voglio piangere. Quindi questo è un esempio in cui la creatività non muore e la storia non diventa altro che... L'universo che hai creato non diventa altro che una mucca da sfruttare, da mungere ancora un po' prima di mandarla al macello per fare ancora qualche altro soldo. Ma sempre parlando di nostalgia, come doveva essere questo il tema della puntata, forse più nostalgia che questa critica all'industria. Vanno a braccetto, dai. Kojima non si è... Non è stato con le mani in mano, dai. No, nel senso, non si è rifiutato di usare un po' di nostalgia anche nei suoi titoli, era questo che volevo dire. Ci sono... Lui sapeva di avere una fanbase che si era innamorata di questi titoli e che si era affezionato agli personaggi dei primi giochi, e questi spesso venivano non riutilizzati, però ecco, diciamo che più che nostalgia vera e propria, lui non si non voglio usare un termine troppo aulico in questo momento, ma non si rifiutava di mettere un po' di fanservice nei titoli. Oh, ecco. Fanservice che è una tipologia di nostalgia, per così dire, questo è il voler mettere riferimenti a titoli precedenti giusto per far divertire, per dare un po' di soddisfazione alla propria fanbase. Un esempio classico che a me è piaciuto proprio personalmente è questa reference al primo Metal Gear Solid in Metal Gear Solid 4, quando Snake, ancora protagonista di entrambi i giochi, in Metal Gear Solid 4 aveva questo quasi flashback da ex soldato dei suoi momenti, delle sue battaglie appunto in Shadow Moses, la mappa del primo Metal Gear, e per un istante, una volta che si ridestava da questo suo flashback, il modello di Snake per qualche frame ritornava a essere quello tutto di poligoni acuti. Esatto. Era di nuovo questi grossi poligoni del suo modello nella PS1 che stonavano molto con tutto il resto. Quadrettoni, tutto pixelato, che schifo. Ed era una reference molto carina, era per dire, era perché anche in questo caso di nuovo Kojima utilizza questa tecnica di fanservice con anche altri fini, perché c'era questo rimettere il vecchio modello di Snake nel gioco ha anche un significato un po' nella storia, per quando in questo momento Snake si sente vecchio e sorpassato, diciamo. Sì, non era solo un servizio per i fan, era anche un servizio per la storia. E quindi forse è quella alla fine, solo bisogna sempre trovare il giusto equilibrio, e Kojima sembra riuscirci anche quando uno non se l'aspetta. Poi ci sono altri esempi di fanservice, proprio più fanservice, che abbiamo già citato, che invece non gli sono riusciti benissimo, come Beauty and Beast, Cough. Vabbè, quelli sono fanservice perché i giapponesi sono pervertiti. Come? Di un altro tipo, mentre questo fanservice era per la nostalgia, questo era giusto per usare anche l'altra mano quando si gioca. Io qui direi, quelli dicono, ma la nostalgia, perché compri giochi vecchi, perché dai soldi a queste cose fatte per nostalgia? A me piace quello che mi piace. Io mi piace una cosa, la compro, mi ricorda l'infanzia, vabbè, mi piace. Nostalgia di per sé non è malvagia, come ogni cosa è malvagia quando viene usata male, perché per sfruttare i sentimenti della gente basta, per fare soldi facili. Un'altra cosa molto carina era quando, scusami, finisco giusto questo pensiero, era quando dal 3 in poi, se non sbaglio, Snake poteva anche trovare nel gioco delle maschere che praticamente cambiavano le fattezze del suo volto anche in quelle degli altri protagonisti dei vari titoli. Per esempio in Metal Gear Solid 3, me ne ricordo bene, c'erano la maschera di Raiden, che era il protagonista dei Metal Gear Solid 2, e quindi tu avevi il tuo Snake con la testa di Raiden, c'era la maschera di Snake di Metal Gear Solid 1, in cui avevi il modello tutto figo da PS3 con la testa poligonale da esatto. PS1 di Metal Gear Solid 1. E anche lì cose molto da fanservice, ma molto nostalgiche, ma carine, che ci stavano, erano cose simpatiche. Era una meccanica nuova del gioco il poter utilizzare delle maschere per cambiare l'aspetto, del, per potersi mimetizzare meglio nel territorio, e c'era questa reference cadeva a fagiolo, per così dire. Altre cose da dire? Non saprei, se no magari... Boh, sì. Poi se vogliamo fare un discorso sul relativismo, dire se esiste il bene o il male, abbiamo, penso, un'altra mezz'oretta, possiamo arrivarci, secondo me. No, può essere definita nostalgia il fatto di ritrovare sempre un po' gli stessi personaggi nei vari titoli per... No, quella è più di storia, cioè nel senso, alla fine erano le persone, il fatto che... Per esempio, Revolver Ocelot... No, vabbè, ma quello... No, quello è più di storia, quello lì non c'entra. Poi Revolver Ocelot ogni volta cambia, non si manca... Ma questo è Ocelot, ma chi è questo? Ma è Ocelot, è Liquid? Forse quello, chi lo sa? Chi lo sa? Comunque, vabbè, un giorno dovremo fare l'episodio su The Phantom Pain, cioè parlare di episodi, di giochi che sono stati menomati, che hanno un arto mancante. Sarà un episodio doloroso, ma per ora direi che possiamo tagliare questo episodio qui, in questo braccio. Mamma mia, iniziamo... quanto siamo andati fuori dall'anno. Sto pesantissimo, è completamente, cioè, è stata un'unica digressione, cioè tutto quello è stato. Beh, forse è una dimostrazione che è stato un episodio molto creativo, in effetti, quindi la nostra creatività non è morta. No, non è vero. Siamo morti nel fare questo off topic. C'erano esempi di nostalgia in Death Stranding? Non, sinceramente, non che mi ricordi. Beh, sono tutti un po'... Cioè... E c'erano... Un po' tutti rimpiangono. Cioè, dai. Ok. No, c'erano varie reference, però non era nostalgia in quel caso. Cioè, non c'è un personaggio che fa la nostalgia, che fa la parte della nostalgia, secondo me. Forse un po' Hartman. Forse, ma... No, diciamo comunque nuova IP, tutta nuova storia, nuova ambientazione, non è che si potesse pretendere troppa nostalgia in questo caso, perché Death Stranding è stata abbastanza... Ah, tu dici nostalgia di... Ah, scusa, avevo capito male. Cosa hai capito? No, avevo capito se c'era fisicamente nostalgia all'interno della trama. Ah, beh... No, cioè, no, a livello di nostalgia effettivamente sì, è una IP nuova, c'è giusto un po' il design... Però quello è perché c'è sempre... Cosa? Come si chiama? Shinji... No, Kojima. Come si chiama il collaboratore di Kojima? Nomi, non mi ricordo mai. Si chiama Yoji Shinkawa. Che loro due insieme fanno Metal Gear, in pratica. Cioè, loro sono... Anche, cioè, Yoji Shinkawa è tipo il dio dei Mac e dello stile visivo di Kojima, diciamo, la parte visiva. Non appare mai a Yoji Shinkawa Game all'inizio, questo bisogna ammetterlo. Vabbè, però è abbastanza conosciuto. Vabbè, ma delle manie di grandezza di Kojima ne parleremo, esatto, in un altro episodio. Per adesso direi che abbiamo parlato anche troppo, e se Jacopo non ha nient'altro da aggiungere... Guardate Agents of S.H.I.E.L.D. Io... Cito un cazzo. Nostalgia. Esatto. Io sono Marco. Io sono Jacopo. E questo è stato il 13° episodio del Focolare Elettrico. Speriamo vi sia piaciuto e alla prossima. Continuate a giocare. Ciao ciao. Ciao a tutti.